30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Oltre 1 miliardo di euro arrivati in Senegal nel 2007 solo da Francia, Italia e Spagna. Oltre un terzo sono quelli italiani, scesi a 287 nel 2008 secondo l'ufficio italiano dei cambi della Banca d'Italia, che però dichiara di non tener conto dei canali informali e non registra versamenti inferiori a 12.500 euro, escludendo così una parte significativa dei movimenti. Secondo uno studio curato dal CESPI di Torino nel quadro del programma di sviluppo delle fondazioni For Africa, ciascuno dei 62.000 lavoratori senegalesi regolari attivi in Italia ha mandato a casa 5.200 euro. Buonasera, buonasera da Gigi Donelli, benvenuti al nostro appuntamento con 30 minuti in cronaca. Questa sera abbiamo scelto una notizia economica, una notizia che racconta nella sua sinteticità quanto importanti siano certe relazioni. Quelle di cui parliamo questa sera sono tra due paesi, tra l'Italia e il Senegal. Il Senegal, vi ricordo, rappresenta oggi in Italia la prima comunità dell'Africa subsahariana. Molti progetti, molte prospettive, naturalmente anche molte difficoltà ovviamente su entrambi i fronti. Ne parliamo questa sera con noi Marzia Sica, buonasera. Buonasera e benvenuta a Radio 24 30 minuti in cronaca. Marzia Sica è la responsabile, appunto la coordinatrice del progetto Fondazioni For Africa. Allora partiamo subito da questo progetto, le chiedo di raccontarci in estrema sintesi di cosa si tratta. Progetto di cooperazione internazionale che è stato promosso e avviato dal novembre del 2008 ed è tuttora in corso da 4 fondazioni italiane: Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariplo, Fondazione Montepaschi e Fondazione Cariparma, in partenariato con alcune ONG italiane, organizzazioni non governative italiane che si sono occupate di cooperazione con il Senegal da diversi anni, in partenariato con soggetti della società civile senegalesi che sono i protagonisti veri della nostra iniziativa, e ancora in partenariato con associazioni di migranti senegalesi che da tempo sono operativi in Italia, in diverse regioni italiane, nel nostro caso in Piemonte, in Lombardia, in Emilia Romagna, in Toscana, e che da tempo hanno avviato attività di solidarietà e di piccoli progetti di sviluppo nella loro comunità di origine. Ecco, nella comunità di origine, ecco, io vorrei insistere, nel corso anche di un viaggio che ho appena realizzato in Senegal ho avuto modo di vedere una dinamica particolarmente intensa. Sono veramente rimasto sorpreso da quanto le relazioni tra questi due paesi si siano fatte forti. Certo, è evidente per molti che vivono soprattutto in certe parti di Italia quanto sia importante la comunità senegalese, forse non altrettanto e quanto sia appunto poi sulla sponda africana. Un piccolo esempio: Lugà, città come Lugà che sono gemellate con Torino, all'interno del quale voglio dire tutti o quasi parlano l'italiano, comunicano attraverso il mondo e la comunità italiana attraverso una serie di relazioni che fa sì in estrema sintesi che ogni famiglia di fatto abbia un immigrato. Ecco, partiamo dunque da loro, cioè dalle comunità. Che cosa sta accadendo all'interno delle comunità di migrazione? Lo ricordo, la migrazione senegalese appare intorno alla prima metà degli anni Ottanta, ci sono le ondate dei Vukumpra, c'è l'apparizione sulle nostre spiagge di piccoli venditori ambulanti, ma questo oggi appare una cosa veramente antica per certi versi, poiché molto nel frattempo è accaduto. Ecco, che cosa racconta oggi la diaspora senegalese, a cosa ambisce Marzia Sica? E per quanto riguarda l'aspetto che noi più che interessa di più al nostro progetto, la comunità senegalese ci racconta di una realtà forte in Italia di associazionismo, un associazionismo rivolto a fornire servizi ai senegalesi che stanno in Italia, per cui sono nate diverse, anche molto diverse fra loro, associazioni con con questa missione, con questa volontà di aiutare, assistere con servizi sempre più specializzati i propri associati in Italia, ma ripeto, per quanto riguarda il progetto Fondazione For Africa, ed è questo che il nostro progetto ha voluto valorizzare particolarmente, ci racconta anche della volontà di qualificare meglio le rimesse e il rapporto tra Italia e Senegal, con un forte protagonismo da parte delle associazioni, cioè i senegalesi che stanno in Italia, che si sono integrati nella comunità italiana pur con le mille difficoltà che tuttora vivono, anche difficoltà lavorative accentuate negli ultimi mesi, anche purtroppo a causa della crisi economica più generale, comunque vogliono esprimere un protagonismo nello sviluppo della loro comunità di origine in Senegal. Ecco Marzia, sentiamo insieme un esempio di questo. Le varie fasi non prevedeva ancora la produzione, non eravamo ancora pronte per la produzione, noi eravamo Sono nella fase troppo avanti. Troppo avanti. Sa perché? È l'entusiasmo, perché dopo le formazioni, le attrezzature che abbiamo utilizzato per la formazione, noi stiamo mettendo a posto un locale per loro, e questo locale non è ancora pronto, siamo alle ultime, siamo alle piastrelle. Si deve aspettare di finire il locale, di installare l'attività, di inaugurare, invece loro sono andati, ma no, ma perché ci fermiamo? Qui possiamo anche fare le cose, perché fermarsi? Si parte, la domanda la pongo in modo diverso, quando la produzione sarà operativa? Allora, lo capiremo bene nella seconda annualità, perché abbiamo un secondo anno che parte adesso in questo mese. Il percorso della seconda annualità prevede un business plan, un piano commerciale, tutto un accompagnamento verso la promozione e vendita del prodotto, sia a livello locale, nei mercati limitrofi, con anche dei punti di vendita, e anche nelle scuole, perché per esempio durante le ricreazioni, nei stadi, manifestazioni religiose, nei campomani del turismo responsabile, che il progetto ha una componente così, allora si dovrà capire bene. Cioè voi vorreste invadere di succhi di frutta, di succhi di sciroppi tutto il territorio, il paese, il si paese. Parte da Kebemer fino a Dakar per arrivare... e in Italia. Ecco dunque, questa è un esempio, ne sentirete nei prossimi giorni, Aisha Tu, presidentessa, presidente di Stretta di Mano, un'associazione che lega di fatto Mantova, Torino, altri luoghi a Kebemer. Kebemer è una delle cittadine senegalesi. Allora Marzia Sica, mi sembra una buona rappresentazione anche della voglia di crescere, e le chiedo qual è il ruolo che svolge questa nuova forma di cooperazione proiettata verso il privato, che si sviluppa anche attraverso le fondazioni For Africa. Hai parlato bene di entusiasmo, di voglia di fare, ma direi, e questa è forse anche una caratteristica che cerchiamo di valorizzare nel nostro progetto, voglia di fare bene da parte delle associazioni di migranti. Non è solo una questione fondamentale di inviare rimesse a casa per aiutare le proprie famiglie, non è soltanto una questione altrettanto importante che queste rimesse vengano investite bene dalle proprie famiglie, anche per al fine di investimenti produttivi. C'è anche una fortissima voglia di avviare attività collettive sociali e promuovere collettività sociali nella propria comunità. È il caso per esempio dell'associazione di Stretta di Mano di migranti senegalesi, soprattutto di Mantova. Per la maggior parte si tratta di donne migranti, che ha deciso di prendere per mano un gruppo di donne di Kebemer. Marzia Sica, qui si tratta in questo progetto di un approccio multisettoriale. Che cosa significa? Significa investire non soltanto in un settore, per esempio lo sviluppo rurale, lo facciamo investendo in diverse filiere, la filiera della frutta, del pesce, dei prodotti zootecnici, ma pensare che per sostenere queste attività produttive è necessario anche il credito ed è necessario anche pensare ad attività complementari a queste attività tradizionali come per esempio il turismo responsabile e lavorare ancora nella sempre maggiore valorizzazione di questa interdipendenza di cui lei parlava tra Italia e Senegal, partendo da attività di sensibilizzazione nelle scuole e nelle comunità. Questo per noi è l'approccio multisettoriale ed è anche un approccio di filiera, cioè non lavoriamo soltanto al miglioramento della produzione dei prodotti, ma anche alla loro trasformazione, alla loro commercializzazione e al loro trasporto sui mercati locali, nazionali e internazionali. Ecco, multisettoriale significa anche molti attori, una complessità particolare. Ce la può sintetizzare? Noi lavoriamo nel nostro progetto con diverse organizzazioni non governative italiane, ACRA, COPI, CISV, COSPE, con un istituto di ricerca, il CESPI, e con quattro associazioni di migranti, Associazione Stretta di Mano, Associazione Senegalese di Torino, Associazione Trade Union, l'Associazione dei Senegalesi di Parma e poi con molte altre associazioni di migranti. Ognuno di loro porta competenze specifiche in diversi settori, però ognuno di loro lavora insieme a tutti gli altri e questo per noi è anche un valore. 30 minuti in cronaca. Ancora buonasera da Gigi Donnelly, bentornati all'appuntamento con 30 minuti in cronaca. Questa sera parliamo dunque di Senegal e di Italia. Con noi Marzia Sica, project manager per Fondazioni For Africa, di un progetto interessante, complesso, di cui continuiamo a parlare ripartendo dunque dall'accesso alla finanza, al sostegno finanziario, che naturalmente è uno dei fattori più complessi ma anche più dinamici e che si sviluppano in questa fase in Africa. Marzia Sica ci stava raccontando dunque dei piccoli progetti. Quanto è complesso per delle donne di un villaggio rurale africano accedere ai soldi, ai finanziamenti che servono a sviluppare un'attività? Molto complesso perché esistono soprattutto nei grandi centri, a Dakar e in altre grandi città senegalesi, delle banche che però ovviamente prestano i soldi anche per avviare delle piccole attività economiche con delle condizioni che sono prettamente bancarie. Esistono però anche degli altri soggetti, sono i soggetti organizzazioni di microfinanza che invece riescono a prestare risorse anche diversamente, in maniera diversa, con condizioni diverse rispetto alle banche. L'aspetto importante è quello di legare attività che vogliono promuovere attività rurali e dare loro la possibilità di avviare attività agricole o attività complementari e connesse attraverso il credito. Questa possibilità è data attualmente da organismi di microfinanza. Secondo noi è importante che questi organismi di microfinanza si mettano in rete per essere più solidi, che siano più professionali e soprattutto che abbiano prodotti che effettivamente rispondano alle esigenze di attività economiche realizzate in ambito rurale. Coinvolgiamo tre unioni di microfinanza anche nel delicato sistema delle rimesse che lei citava. Questo grande fiume. Sì, perché questi soggetti di microfinanza hanno diverse esigenze. Tra queste, quella prioritaria è che per essere solide, per essere sostenibili nel tempo, oltre che a rafforzare competenze tecniche, e questo è un lavoro che facciamo nell'ambito di Fondazione For Africa, hanno anche bisogno di risorse, nel nostro caso nelle zone rurali. Ecco, potremmo stare a lungo ad ascoltare le note di Youssou N'Dour, questo uno dei brani più famosi della cultura senegalese, un paese di musica, di teatro, molto teatro sociale, che racconta anche i temi della migrazione, il viaggio dei ragazzi delle piroghe. Ho assistito personalmente a dei toccanti eventi di strada in cui in qualche modo si educa anche la gioventù, i ragazzini a evitare la migrazione clandestina, i percorsi più pericolosi, a volte veramente assurdi, che sono stati sviluppati nel corso di questi anni. Ma insomma, abbiamo molti temi, il tempo corre. Allora, approfittando della presenza di Marzia Sica, vorrei concludere invece questa nostra puntata sulle prospettive. La crisi finanziaria che evidentemente ha toccato l'Italia, l'Europa, in questi anni ha cambiato anche le modalità della cooperazione. Le presenze storiche italiane hanno visto una riduzione del sostegno finanziario, da qui anche l'ingresso di nuovi attori come sono le fondazioni e in generale i privati. Quanto questo sta cambiando, Marzia Sica, il nostro progetto di relazione con l'Africa e quanto è importante la continuità di questi progetti nel tempo? Direi che in questo momento la presenza di soggetti privati, anche molto diversi tra loro, nell'ambito della cooperazione internazionale è fondamentale, non soltanto perché possono rappresentare una fonte di risorse alternative o complementari al sistema classico della cooperazione internazionale portato avanti che pur con risorse ridotte dalla cooperazione bilaterale o dalla cooperazione multilaterale, ma soprattutto io direi per le competenze che il settore privato può portare nel sistema cooperazione internazionale. Le prospettive sono quelle di essere molto più efficaci nei progetti di cooperazione internazionale, di essere complementari e quindi di fare le cose insieme. Direi che Fondazione For Africa ha sperimentato questa possibilità di partenariato cercando relazioni con programmi finanziati dalla cooperazione bilaterale italiana, dalla cooperazione multilaterale come la FAO, cercando relazioni con altre fondazioni e cercando relazioni con altri soggetti privati che operano in questo momento in Senegal. Direi che un po' il filo conduttore di questo partenariato per noi sono le associazioni dei migranti che in Senegal non solo portano, come dicevamo, rimesse, portano secondo noi anche competenze tecniche che devono essere sicuramente rafforzate, ed è questa è una delle sfide del nostro progetto, e portano competenze di relazioni, sono soggetti che possono mettere insieme e far lavorare insieme, noi speriamo sempre più in maniera efficace, soggetti privati e pubblici per creare un vero sistema di cooperazione internazionale. E direi anche di reciproco interesse, perché forse questo è un po' l'elemento di grande innovazione. In una battuta abbiamo dimenticato di dare una cifra importantissima: quanto è stato l'investimento sui 3 anni del progetto Fondazione For Africa? Il progetto Fondazione For Africa in Senegal sarà, perché si chiuderà in una prima fase alla fine del 2011, di oltre 5 milioni di euro. Ricordo che però esiste un altro progetto Fondazioni For Africa portato avanti dalle stesse fondazioni con ovviamente altri soggetti in Nord Uganda, e quindi il peso complessivo di questa sfida delle 4 fondazioni per 3 anni è di oltre 11 milioni di euro. Insomma, un grande investimento, sarà sostenibile nel tempo? In una battuta, non dimentichiamolo mai, nelle condizioni anche non facilissime che viviamo tutti quanti, Italia compresa? Ma innanzitutto io mi auguro e sono certa che i progetti che noi abbiamo avviati siano innanzitutto autosostenibili, si sostengano da soli. Noi abbiamo usato sempre un approccio molto imprenditoriale ai progetti che abbiamo messo in atto, quindi centri di condizionamento della frutta, centri di trasformazione del latte, attività, strutture di turismo responsabile, sempre con l'approccio che devono essere autosostenibili, cioè devono avere una sostenibilità economica e finanziaria autonoma. Io penso che la sostenibilità di questi progetti e anche il ruolo delle fondazioni e di altri soggetti nella cooperazione italiana sarà sempre più efficace quanto più integrata sarà. il progetto Fondazione For Africa sta sperimentando questa integrazione e direi anche con risultati che sono assolutamente promettenti. Grazie a Marzia Sica per essere stata con noi, lo ricordo, è la project manager del progetto Senegal di appunto Fondazione For Africa. Torneremo a parlare di questi temi che in qualche modo ci proiettano verso un mondo un po' diverso che riguarda anche il nostro modo di conoscere, di relazionarci con l'immigrazione. Il dato che vi ho dato all'inizio, lo ripeto, 1 miliardo sono gli euro che ogni anno viaggiano dai 3 principali paesi europei al Senegal. Insomma, una cifra importante, un segnale importante di cambiamento di cui tutti noi dobbiamo tenere conto. Grazie a tutti.